al tour con Ivan Basso. Appuntamento dal Tour de France con l'inviato speciale di Radio 24, Ivan Basso, in diretta. Oggi decima tappa con la vittoria in volata del tedesco Greipel su Cavendish, sul traguardo di Carmaux. Ma ci sono tanti argomenti che tengono banco nel gruppo. Allora Ivan, intanto ben ritrovato. Ti chiedo subito, in vista dei Pirenei si parla molto delle condizioni di Alberto Contador. Diverse cadute per lui, un ginocchio che fa un po' le bizze. Come l'hai visto in corsa? Buonasera a tutti. Ma è stata una tappa anche oggi molto difficile, con un finale fatto veramente a grande velocità da parte degli atleti, e quindi anche oggi una giornata non tranquilla al Tour, e così come del resto tutta la prima settimana è stata molto tirata. Non esistono giornate facili in questo Tour de France. Per quanto riguarda Contador, non so esattamente quali sono le sue condizioni, io lo vedo correre nelle prime posizioni, quindi è chiaro che le cadute creano molti problemi a chiunque, nel senso che non si riesce a ritrovare veramente quel colpo di pedale ottimale che uno ha, però sinceramente non so esattamente quali sono le sue condizioni fisiche. Nel frattempo abbiamo visto che al Tour purtroppo c'è stato anche il primo caso di atleta positivo, il russo Kolobnev. Ecco, qual è stata la reazione del gruppo? Come ne avete parlato tra di voi? Ma qui non c'è tempo, oggi abbiamo fatto una media altissima. Io credo che innanzitutto bisogna aspettare le controanalisi e tutto questo. Io non voglio entrare nel merito della vicenda perché non l'ho seguito. Io in questo Tour sono qui per cercare di fare un bellissimo risultato, non bello, quindi cerchiamo di fare il massimo, e mi occupo della mia salute e quella dei miei compagni e basta. Quindi di quello che accade nelle altre squadre sono problemi loro. Senti, mi viene una curiosità, sono giorni molto complicati sui mercati finanziari e quindi inevitabilmente anche per l'Europa. C'è qualche momento della tappa in cui riuscite a parlarne, o magari c'è qualche compagno di gruppo che è più attento a questi aspetti finanziari, che magari vi dà qualche suggerimento? Ma guardi, in questo Tour veramente è stato molto molto particolare, siamo andati veramente tutti i giorni molto forte, e quando non si andava forte c'era della pioggia, c'era vento, e quindi non c'è moltissimo tempo nemmeno per scambiare due parole anche di attualità. Capita di parlare anche di attualità, ma fino a questo momento non ce n'è stata l'occasione. Quindi per il momento fanno più paura i Pirenei che la speculazione, ecco, diciamo così. Sicuramente il percorso, le tappe sui Pirenei sono molto molto difficili, però a molti atleti spaventavano anche queste tappe miste con percorsi molto nervosi, molto tecnici, e poi come ho detto il maltempo che abbiamo trovato in questo Tour è qualcosa di incredibile nel mese di luglio, quindi tutto crea molto più stress e arriviamo ai Pirenei molto più stanchi di quanto normalmente dovevamo arrivare. Allora Ivan, buona pedalata e ti aspettiamo ancora qui su Radio 24 in esclusiva domani dopo l'arrivo di tappa. Grazie a voi, buona serata a tutti.